Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono un libero cittadino che ha deciso di salire su un albero, uno dei 16 cipressi che devono essere abbattuti, e lo faccio, ripeto, da libero cittadino. Io non sono tesserato a nessun partito politico, ne ho mai fatto tesseramenti, non sono tesserato a nessuna associazione ambientalista, perché quando ne avevo 10 con mia nonna mi portava a passeggiare, ci fermavamo qua sotto questi cipressi. Quindi perché quando avevo 15 a... leggevo le poesie sotto questo cipresso, quando pioveva mi riparavo. Ci sono un vero amore per queste piante, diciamo, sì, è proprio una cosa che senti, sì, senti dentro. Sta accadendo qualcosa per cui vale la pena di riferirlo. Sta accadendo in questi momenti, le agenzie sono uscite da poco, perlomeno all'attenzione nazionale. Un ragazzo di 26 anni e un altro 19 anni si sono arrampicati su due cipressi al centro dei giardini estensi a Varese e li rimarranno. Rimarranno per protesta perché il comune, per motivi suoi che magari chiariremo nel corso della trasmissione, vuole abbatterli. 15 cipressi probabilmente saranno occupati da altrettante persone, anzi 16 cipressi, tolto quello dove è salito questo ragazzo che è già appeso con, come fosse un, una sorta di pacco sospeso a questi alberi, perché il cipresso in sé non è proprio un albero molto adatto per farci la casa sopra come aveva fatto il barone Rampante, perché è un albero stretto e lungo con poche fronde, quindi occorre issarsi una carrucola e stare lì sospeso a penzoloni. Questo ragazzo che si chiama Michele è da lì da qualche giorno, ha detto che non scenderà, ha detto non vuole sentire storie, non vuole negoziare, rimarrà lì, rimarrà a oltranza per impedire che l'albero venga abbattuto. Questa è una delle proteste che danno il fianco senz'altro a crescere, a ingigantirci. Perché? Perché oggi sembra che gli unici argomenti che riescano a trascinare una sorta di commozione generale, di senso generale di partecipazione, a volte anche esagerato, a volte con punte assolutamente ridicole, sono quelli relativi alla salvaguardia dell'ambiente, alla salvaguardia degli esseri senzienti. Si va dal cipresso e si arriva fino all'orsa, che io impunemente osai commentare con una briciola di ironia giorni fa, e infatti mi arrivarono, ma come anche tanti altri miei colleghi, minacce di morte, infame, con te ci faremo stracci da pavimento, tu che hai detto che con la orsa ci faranno un tappeto. Beh, dico, una volta che è morta cosa ci fanno? Non è che possono farci un mausoleo e metterci davanti una sorta di tempio per andare a pregare per la povera orsa abbattuta. Cosimo salì fino alla forcella di un grosso ramo dove poteva stare comodo e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata sulle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. «Quando sarai stanco di star lì, cambierai idea!» gli gridò. «Non cambierò mai idea!» fece mio fratello dal ramo. «Ti farò vedere io appena scendi!» «E io non scenderò più!» e mantenne la parola. Come appunto Cosimo, barone Rampante di Italo Calvino, stato letto da Barbara Alberti, che era salito su un albero perché da piccolo si rifiutava a mangiare le lumache, lui le voleva liberare, la sorella infame gliela cucinata, mi sembra di ricordare così, lui da buon vegano ante litteram non voleva mangiare le lumache, quindi sale su un albero, ci rimarrà per un periodo immenso della sua vita, passando di albero a albero, di fronda in fronda, creerà un vero e proprio regno di persone che vivono sugli alberi. Per Michele la cosa sarà diversa probabilmente, di Michele se ne parlerà come si parla dei tanti eventi che trascinano l'opinione pubblica. Già immagino l'hashtag io sto con il cipresso, prepariamoci alla battaglia. 800240024, siete d'accordo con la battaglia di Michele che sale sull'albero? Sareste disposti anche voi a salire su un albero e restarci per dimostrare qualcosa come stiliti naturali, come persone che vogliono far capire che in realtà il mondo sta andando verso una direzione sbagliata? Non si deve parlare di soldi perché ci sono i fondi, perché c'è un restauro, perché c'è un discorso architettonico, c'è un discorso di 16 vite, il mio più mero affezionamento a una pianta, 16 vite che sono qua da 60 anni. Quindi a questo punto questa grande sane, sanissime. Questo grande amore per queste piante mi fa pensare che tu sei determinato, non mollerai e quindi quali sono le tue intenzioni? Dove di rimanere arrivare? Qua sicuramente fino a giovedì alle 20, che è quando si riunirà il consiglio comunale per avere una decisione definitiva sull'abbattimento di questo e degli altri 15 soldatini verdi che ci circondano. È interessante, e bisogna riconoscere a questo ragazzo, Michele Forzinetti si chiama, la forza e la coerenza per il suo proposito. Avete sentito? Sono 16 vite da salvare. Lui ha ragione, probabilmente sono gli alberi dove andava da bambino, sono alberi a suo dire completamente sani, non c'è un motivo logico per abbatterli. Spesso vediamo abbattimenti di alberi che ci fanno sanguinare il cuore. Un albero ci mette molto tempo a crescere, non è che un cipresso lo pianti e in poco tempo diventa un grande albero che fa ombra, ma soprattutto quei 16 cipressi che hanno una loro identità, per lui sono inabbattibili e lui non sente storie e lui non vuole assolutamente cedere. Ci sono ascoltatori da Varese che possono in qualche maniera darmi un quadro più preciso rispetto allo scarno comunicato d'agenzia che ho davanti sulla protesta di Michele. Anche voi sapete qualcosa di questi alberi di abbattere? Anche voi avete episodi simili in altre comuni d'Italia in cui inspiegabilmente vengono abbattuti degli alberi? Ne ho visti abbattere anche a Roma. Alcuni giustamente andavano abbattuti, erano pericolanti, pericolosi. Molti tipi di alberi poi non possono tollerare il crescere della città, le loro radici non trovano dimora e rischiano la caduta e molte volte cadono e creano anche molti danni. È un peccato, bisognava pensarci prima. Chi ha piantato alberi non immaginava che la città sarebbe mangiata tutta la terra sotto quegli alberi, probabilmente. Ma altri alberi vengono abbattuti per dei capricci, perché danno fastidio, perché magari bisogna costruire qualcosa e quello a volte dispiace. Ma se è indispensabile, anche l'albero, come appunto l'orsetto, come il maialino, come la pecorella, come il lupacchiotto, comunque in qualche maniera devono pagare il conto che il mondo deve andare avanti. Luana da Grosseto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì, io volevo fare una denuncia, che io abito a Grosseto e attualmente in via Monterosa, angolo via Montescengio, stanno per essere costruiti 3 stabili di 3 piani, se ho visto bene. E anche in questo caso abbatterebbero alberi innocenti? Sì, stanno abbattendo, non so chi, come hanno potuto avere il permesso di abbattere dei pini quasi centenari. E nessuno è salito sopra per protestare? Per costruire questi 3 stabili, che fra l'altro non credo che questi alberi siano un ostacolo alla costruzione di queste. Il pino ha delle radici molto lunghe, è difficile fare delle fondamenta di una casa dove c'è un pino. Sarà sì, una scelta molto utili. Cioè, assolutamente. E lei sarebbe disponibile a salire sul pino e restarci per protestare? Darebbe parte della sua esistenza, della sua libertà, del suo tempo per salvare la vita a un pino? Guardi, ora io fra l'altro soffro di vertigini, non credo che se, tutte le scuse sopra, sono però, buone, signora, vertigini. Però mi faccio delle domande, veramente. Potrebbe incatenarsi al fusto del pino per evitare il taglio? Ci posso pensare. Allora, vediamo, abbiamo già raccolto da Grosseto una signora che ha detto salire no perché c'ha le vertigini, ma incatenarsi al fusto del pino e porre il suo corpo innocente alla lama vindice crudele della motosega potrebbe farlo. Fiore, buongiorno. Anch'io, io sto pensando al corpo innocente, è deliziosa questa espressione, buongiorno a voi. Beh, il corpicino innocente della povera ascoltatrice di fronte ai denti rapaci della motosega, lei lo farebbe? Sì, lo farei senz'altro, anzi volevo sapere dov'è che vado a fargli i miei complimenti. Dov'è questo ragazzo? Questo ragazzo sta a Varese, al centro di Varese, lei è vicina a Varese? Sono a Milano, posso valutare di andarci. Beh, c'è il trenino, ma ci mette 40 minuti, ma meno ancora. Ma certo. Anche perché ci sono ancora 14 pini liberi, 2 sono già occupati. Si deve portare però una corda d'imbragatura, perché il pino lo sa, il cipresso. Il mio cane, che può anche aggredire eventuali violenti che si avvicinino con una motosega, ecco. E lei salire sul cipresso? Salire no, 67 anni, via. Ma che ci vuole? Salire. Beh, la possono tirare su con la carrucola, scusa. Ecco, sì, con la carrucola. Con la carrucola ci andrebbe sul cipresso. Va bene, io do la notizia, visto che abbiamo cercato Michele, non l'abbiamo trovato, non vuol parlare con nessuno, abbiamo cercato anche l'assessore a due telefonini ma non risponde. Diciamo, se ce ne sono ancora 14 cipressi liberi, uno lo prende la nostra ascoltatrice Fiore, che però dovete issarla con la carrucola perché da sola non ce la fa. Michele, buongiorno. Buongiorno. Anche lei offrirebbe il suo corpo innocente per salvare la vita? No, io avevo chiamato per un'altra cosa. Lei ha detto com'è che, insomma, se ci interessiamo solo ai cipressi, alle orse, eccetera. No, solo, diciamo, l'emotività scatta subito. Ci interessiamo. Ma perché? Perché? Io credo perché nei rapporti tra i cittadini, in questo stato così scassato, ma soprattutto nei rapporti umani, c'è rimasto ben poco. Io non sono un animalista, non un ambientalista sfegatato. In questo caso, non so cosa dice, un alberista, non so come si dice. No, neanche, ho letto il Barone Ambato, mi è piaciuto molto all'epoca, però voglio dire, secondo me la gente si rifugia in queste cose, a parte i fanatici, perché non ha forse più la bellezza dei rapporti umani e in questo stato in cui molti, troppi non si riconoscono. Quindi non avendo più umani da abbracciare senza paura, esatto, di essere borseggiati... Abbracciamo la pulizia della natura, degli animali... E lei cosa abbraccia? L'albero l'abbraccerebbe per evitare la motosega? Non conosco il caso specifico, però sono un appassionato di alberi e io con gli alberi ho una empatia da ragazzo, mio nonno. Lei è competente, è competente di alberi, no, solo per capire, il cipresso perché secondo lei deve essere abbattuto? Se non per fare spazio a qualcos'altro, dice che sono completamente sani. Ma scusi, è in un cimitero, non lo so, dov'è sto cimitero? No, in effetti, guardi, onestamente, non volevo dirlo prima. Il cipresso un pochino fa correre la mano agli attributi, però lì ci stanno i cipressi. Per me il cipresso è una pianta bellissima, non conosco il caso specifico, ma io non lo abbatterei. Non l'abbatterei mai un cipresso. Melog. Cronache meridiane. Io da venerdì mattina che non sto assumendo cibo solido, sto facendo lo sciopero della fame da venerdì mattina, sto solo bevendo i succhi di frutta che mi porta la gente, acqua e qualche caffè. Ti giro la domanda, mi chiedono tutte le persone che passano di cosa hai bisogno, a me non serve niente, non sono io che faccio questa protesta, sono solo un richiamo per cipressi. Le mie parole sono stare su quest'albero e dormire su quest'albero, mangiare su quest'albero. Esattamente. Io sto col cipresso, Michele Forzinetti, appeso a 10 metri d'altezza su un cipresso al centro del giardino Estense di Varese, protesta perché non vuole che i suoi fratelli cipressi siano abbattuti, dice che beve soltanto liquidi, non mangia nulla da giorni. È chiaro, fare quella grossa 10 metri d'altezza appeso a una carrucola non è proprio la migliore delle cose e quindi logicamente dovrà contenere anche la sua dieta. 800240024, frapporreste i vostri corpicini innocenti fra la lama vintage e crudele di una motosega che vuole abbattere un albero? Se siete disposti a farlo, chiamate. Elena, buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da Varese, quindi sa tutto. Chiamo da Varese. Oh, sì. Ci informi. Allora, non sono i classici cipressi da cimitero, ma sono cipressi californiani, quindi sono un po' più bassi, arrotondati. Le cipressesse le chiamano in Umbria, sì, ho capito. Sì, ecco. Niente, li vogliono abbattere perché non si vedono gli alberi, non si vedono bene, non vengono valorizzati gli alberi di tasso che stanno dietro. Scusa, ma chi se ne frega, perché il tasso ha maggior diritto, esatto, di essere visto? Perché questi appunto sono giardini estensi, sono stati progettati così, adesso non ricordo quanti anni fa, e il aver piantato questi cipressi 40 anni fa adesso crea questo. Quindi è un motivo filologico, la plebea cipressessa è cresciuta troppo e copre il fulgido tasso che invece era nel progetto del giardino estense. Esattamente. Allora è una questione sociale, ha ragione, esatto, il nostro ragazzo. L'assessore diceva riportiamo i giardini all'ordine perduto. Beh, scusi, guardi, il mondo è cambiato fanta miliardi di volte, cambia la natura, cambiano le città. L'assessore è talmente pedante che vuole riportare alla visione del tasso esattamente come l'ha pensata il progettista dei giardini estensi, ma chi se ne importa? Esatto, no, sono problemi fondamentali per Varese, ovviamente. Ah, beh, certo, se no, figuriamoci. No, ha ragione. A questo punto so la vera ragione, che non aveva scritto ancora nessun giornale, per fortuna, perché se pensava. Perché i cipressi sono totalmente sani, non hanno nulla. Vanno tagliati perché un assessore dice riportiamo al colpo d'occhio del tasso come era una volta, così. Sì, le dico, sto leggendo proprio questo su Varese News, che è un quotidiano online locale, decisamente affidabile, e c'è proprio scritto questo. Ma è bello, è bello il luogo dove stanno questi cipressi a Chioma Larga? Lei che ci va, che conosce sì, la città. Sì, ma è molto bello. Siamo stati lì a un matrimonio poco tempo fa, proprio sono i giardini del comune. C'è questa collinetta con la fontana davanti e dietro ci sono le scalinate che prima costeggiano i cipressi, poi ci vanno dietro. È molto bello. E invece ciò che vede coperto da questi alberi merita... E dietro ci saranno degli alberi di tasso che saranno sfuggiti alla mia attenzione, però il colpo d'occhio... sinceramente io li ho sempre visti così, a me piacciono tantissimo. No, quello che non mi convince è questa sorta di gerarchia, quasi fosse una casta anche negli alberi. L'umile cipresso deve essere abbattuto perché si veda il tasso, ma chi se ne importa del tasso? Già mi sta antipatico il tasso. Ripeto, il grido di battaglia deve essere: io sto col cipresso contro il tasso, naturalmente. Letizia. Salve, buongiorno Nicoletti. Sì. Io semplicemente volevo dire che contesto l'operato di questo ragazzo. Perché? Lei sta col tasso invece? No, io non sto con nessun... Ma sembra giusto uccidere un cipresso perché si veda meglio un tasso, non perché salvi la vita al tasso, solo per farlo vedere meglio. Spocchioso, fastidioso, pieno di sé il tasso, con questo nome altisonante. Vuole la vita di 16 cipressi perché lo si possa vedere meglio. Ma cosa sarà mai un tasso? È sicuramente un albero come un altro, semplicemente secondo me questo ragazzo avrebbe dovuto impegnarsi in persona nella vita sociale appunto della sua comunità, magari proponendosi alle elezioni. Ma lui non vuole che facendo... si taglino gli alberi, scusi, per lui è fondamentale salvaguardare una traccia del suo ricordo infantile. Avrebbe potuto presentarsi per dare ragione di queste sue opinioni. Adesso salire su un albero, secondo me, vuol solo farsi pubblicità, come ormai va di moda. Salire, più si va in alto... Vabbè, finalmente abbiamo recuperato l'assessore Stefano Clerici. Assessore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Assessore alla sostenibilità e tutela ambientale del Comune Varese. Lei è sotto accusa perché vorrebbe uccidere 16 cipressi soltanto perché si possa meglio vedere il tasso. Questo mi dicono. Io non so. È così? Un po' semplicistico come... Allora, ci spieghi le ragioni. Allora, le ragioni sono prevalentemente due, possiamo aggiungerne una terza che è economica, ma sicuramente meno importante. La prima è una ragione paesaggistica, quella che ha citato lei poc'anzi. Diciamo, disturbano l'armonia progettuale del giardino. Sì, esatto. E non basta accorciarli un pochino, scorciarli un po' la... No. Non ha senso, sarebbe una soluzione all'italiana. Cioè, giusto per placare gli animi e dare un contentino. No, non sono d'accordo. Quella porzione di parco è un giardino alla francese su cui si è intervenuto negli anni 70 inserendo delle alberature che non hanno nulla a che fare col giardino. In effetti erano anni disgraziati quelli in cui si era perso ogni... Quindi è stato, diciamo, turbato il progetto del giardino. Esatto. È come se uno avesse fatto una facciata abusiva in una chiesa di particolare valore, ecco, una cosa del genere. Per i puristi sicuramente dei giardini appunto storici, dei parchi storici, sicuramente è un pugno nell'occhio. Io non sono un tecnico, sono prestato a questo settore, ma ho tutt'altre competenze. Però adesso passa per essere il boia degli alberi, non è da poco. Io dalla mattina di solito mi sveglio e decido quali alberi abbattere, così come sfizio. In realtà c'è chi mi vuol far passare per appunto il cementificatore ancora un po', ma qui non si tratta proprio di nulla di tutto ciò. Stiamo semplicemente cercando di rimettere ordine e di rimediare a un errore che è stato commesso negli anni 70. Però scusi assessore, solo una cosa, questi alberi ormai sono una parte attiva del ricordo di tante persone. Questo ragazzo si è messo a protestare perché ci stava da bambino sotto, fanno parte ormai della materia del ricordo dei varesini, come cambia tutto. Anche noi siamo abituati all'altare della patria, oggi guai chi lo tocca, quando l'hanno fatto sembrava un pugno in un occhio, e lo era. Anche Via della Conciliazione fa schifo quando fu fatta, però ormai c'è, che vuoi farci? Non è che possa ritirare su la spina di Borgo Pio. Però da un certo punto di vista io contesto l'approccio sentimentalistico e emotivo a questo argomento. Io credo che si debba anche decidere di assumersi delle responsabilità, anche a volte scomode, di assumersi il rischio appunto di portare avanti un progetto. La sua posizione è chiara, assessore, solo una cosa: come andrà avanti? Cioè, la motosega alla fine butterà giù gli alberi con il ragazzo sopra, lo farete scendere a forza? Cosa farete? No, da lì non scende lui. Per me può rimanere su quanto vuole, non è un problema. Ma se le taglia l'albero cade, si fa male. Assolutamente, aspetteremo con calma, non è una cosa che dobbiamo fare dall'oggi al domani, lo faremo perché c'è una... Vuol dire, l'inverno ci aiuterà, la prima tempesta di neve sarà su Varese, sarete lì pronti con la motosega. Non dobbiamo certo nascondersi, lo faremo alla luce del sole. Un'altra cosa, veloce, c'è un aspetto naturalistico, ci sono degli alberi monumentali tutelati da una legge dello Stato e da una legge regionale, che sono i tassi, che stanno... per essere inglobati da questi alberi che sono stati messi a distanza di un metro. Nessuno. No, ma ho capito perfettamente, c'è una questione, è chiaro, il tasso di fronte al cipresso in questo momento, noblesse oblige. Grazie assessore, c'è stato tutto molto chiaro, alla prossima.